Allora, riprendiamo la linea dagli 87-900 per darvi insomma un aggiornamento, un'informazione, una comunicazione anche abbastanza importante che peraltro fa il paio con le cose che dicevamo in apertura riguardo il discorso relativo alla repressione e al clima insomma in cui scivola pian piano questo paese. Dunque con noi al telefono Luca di Horus. Ciao Luca. Ciao a tutti. Dunque, la comunicazione non è certo delle più belle, perché ci sono praticamente restrizioni inaspettate per i compagni con l'obbligo di firma per la manifestazione del settembre scorso. Allora, informaci bene quanto è successo, Luca. Sì, sostanzialmente dopo una manifestazione che aveva portato la protesta dei movimenti romani sotto il Parlamento in occasione del voto della finanziaria di questa Uruno, dove insomma c'erano state una serie di contestazioni alle porte del Parlamento, 5 compagni romani, di cui 3 molto molto giovani, sono stati messi sotto obbligo di firme, a partire però da una richiesta che prevedeva il carcere per studenti anche in censurati. Erano state date queste firme con un obbligo quotidiano, già alcune in orari anche assurdi, cioè la mattina molto presto o la sera molto molto tardi, già con problemi anche per farle spostare in base agli orari dell'università e di lavoro, finché arriva appunto l'ultima beffa ieri, quando uno di questi compagni giovani si reca a firmare quotidianamente, si trova il pamphlet che dice una cosa un po' particolare anche a detta degli avvocati. Siccome loro sono incriminati per devastazione, anche se non viene ancora, non si capisce bene cosa abbiano devastato durante quella giornata, perché sembra si parli di specchietti, di motorini danneggiati o danni di lievissima entità a dei mezzi presenti in piazza, si trovano il fatto che non gli viene accettata neanche la possibilità di spostare le firme per il periodo estivo. Una richiesta che generalmente viene fatta d'ufficio, e senza neanche grossi problemi. Adesso degli avvocati erano anni che non si vedeva rifiutata una proposta di poter spostare le firme piuttosto che a Roma in un'altra località, cosa che però si inserisce perfettamente dentro il clima i teoremi che costruiscono attorno a questo reato di devastazione, che ormai sembra un'ipoteca messa praticamente su chiunque si mobiliterà d'ora in poi, e credo che faccia perfettamente continuità con quello che abbiamo visto e con le motivazioni che hanno portato alla sentenza del G8 di Genova. Questo è un reato che verrà utilizzato per fermare i movimenti, per spaventare e mettere paura. Viene usato in forma di reato speciale, in base al quale un giudice e un PM possono fare quello che vogliono delle vite delle persone, perché per una situazione di manifestazione sotto il Parlamento, come ce ne sono state migliaia, con momenti di tensione veramente limitati, con zero danni a cose materiali, si produce il dato che degli studenti non solo passeranno tutta l'estate a Roma con l'obbligo di firma, la possibilità di vedersele spostate, ma ad esempio uno di loro, se questa situazione non si concluderà in tempi brevi, non potrà neanche usufruire della borsa di studio all'estero che ha avuto per i suoi studi in medicina. E parliamo di sostanzialmente della nuova generazione di compagni che a Roma si sta affacciando, di compagni giovani impreparati che sono sempre in prima linea nelle battaglie di questi anni e che vengono colpiti in maniera veramente spropositata con un reato che assolutamente non ha nessun tipo di logica, se non quella della depressione e della punizione esemplare. E quindi penso che la campagna che insieme abbiamo costruito per Genova continui, perché già dopo pochi giorni la vergognosa sentenza del G8 che ci ha strappato una serie di compagni, immediatamente questo strumento si fa di ordine pubblico, cioè diventa una costante che viene subito applicata per dei compagni incensurati, ripeto, di 23 anni, alcuni altri più grandi, ma con una sproporzione rispetto ai fatti che sono successi, e con una cattiveria di ledere proprio l'entusiasmo, la possibilità, la vita di alcune persone. Credo che infatti già nei prossimi giorni ci sarà anche su questo qui una raccolta firme, che però appunto anche un discorso politico intorno a questa questione della devastazione e del saccheggio, che dopo Genova, dopo questi altri elementi, ci deve far capire che noi dobbiamo aprire una campagna ancora più forte, ancora più determinata per la sospensione di questo tipo di reato, che rischia di mettere una seria ipoteca su chiunque si muoverà da qui in poi contro come dire, tutto quello che sta avvenendo. Assolutamente, insomma, il messaggio, se volevano farcelo arrivare, è arrivato forte e chiaro, come tu giustamente sottolineavi, poi ancora più forte è arrivato visto che si vanno a colpire dei compagni giovani che certamente, insomma, hanno fatto una scelta, no? Una scelta di campo ben precisa, stanno dando tanto poi peraltro all'organizzazione delle lotte in questa città, e chiaramente li si va a colpire. O peraltro, e questo è bene dirlo, se già insomma il reato di devastazione e saccheggio, così come è concepito, è assurdo di per sé, la sproporzione tra insomma il danneggiamento e la devastazione e il saccheggio, ne abbiamo parlato lungamente di questo, fatti che prima avevano come possibile ritorsione solo al massimo così una, per così dire, uno scappellotto e qualche giorno in gattabuia quando ti andava male, oggi invece rischi di farti anni e anni di galera. Peraltro però in quell'occasione, quella appunto relativa alla giornata là sotto al Parlamento, nemmeno ci sarebbe la fattispecie della lesione dell'ordine pubblico, davvero tra un po' nemmeno quei fischietti si può andare in piazza. No, assolutamente. No, ma dall'altro io credo che dobbiamo anche registrare il dato che comunque ci comincia a essere una strategia delle procure dentro una di dinamica anche di guerra a bassa intensità. Evito la spettacolarizzazione dell'arresto e del carcere, comunque il G8 di Genova parliamo di un fatto comunque eccezionale, ma su tutte le questioni delle mobilitazioni quotidiane ci troviamo con decine e decine di compagni che tra obblighi di firme, obblighi di dimora vengono sottoposti a misure che non fanno scalpore mediatico, ma che nei fatti limitano l'azione e la libertà di movimento in maniera pesante. Quindi anche su questo c'è una strategia, no? In qualche modo cercare di colpire senza fare clamore giornalistico, ma in qualche modo incidendo sulla reale possibilità di potersi muovere. Io credo che sia un segnale molto grave che si somma ai segnali dalla Valsusa fino al Giotto di Genova che registriamo nell'ultimo anno. Credo che probabilmente il terreno comune che abbiamo costruito nella campagna 10% possa essere il terreno per una campagna di liberazione e di riappropriazione di una serie di spazi che dicono che un reato come la funzione del saccheggio deve essere cancellato immediatamente. Ne va della nostra possibilità e della nostra potenzialità nelle battaglie che ci aspettano nei prossimi anni. Eh sì, anche perché ce ne sarebbero da costruire davvero tante, data la situazione di sfacelo in cui ci stanno portando questi signori. Senti Luca, io ti ringrazio molto e ci sentiamo presto. Un abbraccio a tutti, un abbraccio in particolare a Marina e a Alberto, certo. Liberi tutti. Ciao, grazie.